Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Eccoci qui di nuovo insieme, una nuova puntata di Radio Next. Questa volta ai nostri microfoni Paolo Attivissimo, uno dei maggiori esperti di bufale online, con il suo profilo disinformatico che trovate su Twitter e che vi suggerisco vivamente di consigliare. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Allora Paolo, le bufale su internet ci sono sempre state, ma in questo periodo stanno proliferando. Stiamo assistendo a una quantità di disinformazione enorme. Tu, dal tuo punto di vista, che cosa stai rilevando? Sto osservando che non solo c'è una fortissima partecipazione delle persone singole, dovuta ovviamente al fattore emotivo molto intenso che riguarda tutto quello che attiene alle informazioni sulla pandemia, ma c'è un aumento rispetto al passato dell'industrializzazione della falsa informazione, vale a dire gli operatori che negli anni passati avevano cominciato a sviluppare tecnologie per monetizzare la falsa informazione, adesso si sono messi bene in forze a sfruttare questa nostra inevitabile emotiva tendenza a inoltrare allarmi e notizie che sconvolgono. E quindi ho visto un improvviso aumento della produzione professionale di bufale, quindi sia false informazioni sia esche. Vale a dire fenomeni nei quali vengono prodotte delle campagne di spam che si presentano come informazioni utili sul coronavirus, ma in realtà contengono malware, cioè contengono delle, in modo elementare chiamiamoli, dei virus informatici. Che tentano di prendere il controllo dei computer delle persone che li aprono. Peraltro in questo momento la gestione di un ransomware, che sono quelle specie di bombe a orologeria che ti bloccano il computer e che poi richiedono il pagamento di un riscatto, diventano di difficilissima gestione, facendo tutte le attività, anche e soprattutto imprenditoriali, da remoto, no? Esatto, infatti proprio perché improvvisamente moltissime aziende si sono trovate a dover remotizzare la propria attività e quindi con del personale che fino adesso è stato protetto dai sistemi aziendali, ma adesso si trova a lavorare da casa sulla propria connessione, il crimine informatico si è subito attrezzato per poter sfruttare questa nuova vulnerabilità e quindi sono nate nuove forme di malware che utilizzano il classico schema della mail che sembra provenire dalla mail aziendale, da un CEO o da un superiore, con delle istruzioni ben precise di fare qualche cosa, che poi in realtà si rivela essere una trappola, sia attacchi informatici specifici che colpiscono il singolo utente. Chiaro. Qui c'è da segnalare soprattutto un comportamento che può ridurre moltissimo l'esposizione al rischio. Raccontiamolo. Bisogna evitare la promiscuità digitale, vale a dire in queste situazioni in cui ci siamo convertiti di corsa al lavoro da remoto, molte aziende hanno spinto gli utenti, i dipendenti, a utilizzare i propri dispositivi, il proprio telefonino, il proprio tablet, computer, solo che questo significa che lo stesso dispositivo sul quale vengono ospitati o trattati i dati aziendali è anche quello nel quale poi si va a giocare a Call of Duty o viene affidato al figlio per farci un videogioco. Esatto, questo è pericolosissimo, perché magari l'utente, il dipendente sa, si ricorda quello che gli è stato detto nel corso di sicurezza informatica, se l'ha fatto, ma gli altri membri della famiglia che possono mettere le mani su quel dispositivo lo sanno, sono stati formati anche loro, difficilmente così. E il crimine informatico sa che la situazione è questa e ne approfitta molto pesantemente per cercare di attaccarci. Quindi consiglio il più possibile di usare dispositivi separati per l'attività professionale rispetto a tutte le altre attività. Quindi tendenzialmente dovrebbero essere le imprese quantomeno a fornirli o a fornire i software necessari per poter collaborare e operare da remoto. Paolo, ma come faccio a riconoscere una bufala informatica? Partiamo dalle informazioni errate o quantomeno non consistenti. Come faccio a riconoscerle? Di solito le informazioni errate arrivano da un canale non ufficiale, vale a dire ci arrivano attraverso amici o persone di cui ci fidiamo. sono dei passaparola, sono la versione moderna delle catene di Sant'Antonio. Uh-huh. E questo è un grosso problema, perché istintivamente tendiamo a fidarci di quello che ci arriva dalle persone di cui, certo, ci fidiamo. Certo. E quindi dobbiamo fare molta attenzione a quello che non ci arriva direttamente da una fonte ufficiale o comunque autorevole. Quello che ci serve quindi è un filtro molto semplice, in realtà, alla fine. Sì. Se non mi arriva da una fonte attendibile, e qui includo gli amici non sono necessariamente automaticamente una fonte attendibile, se non arriva da una fonte ufficiale la devo scartare, anche se mi arriva da una persona di cui normalmente mi fido, anche se sembra provenire da un mio collega o superiore, devo comunque scartare, non aprire allegati, non andare a visitare i siti linkati da questi messaggi, sì, perché molto spesso sono informazioni ingannevoli e in molti casi sono vere e proprie trappole informatiche che tendono a, se clicchiamo sul link, tendono a prendere il controllo dei nostri dispositivi. Peraltro ci sono anche, sì, perdonami, ci sono anche in realtà fonti che tendenzialmente dovrebbero essere autorevoli. Io ricordo recentemente il programma Leonardo di Rai 3 che ha diffuso una notizia che poi si è rivelata falsa relativamente alla provenienza e alla nascita potenziale di questo Covid, del virus per cui era stato sviluppato in laboratori in Cina e poi e via dicendo. Quindi a volte anche le informazioni che arrivano dalle fonti che sembrano attendibili devono essere verificate. Sì, infatti questo è il lavoro del giornalista, del debunker, è quello di fare il pelo e contropelo alle notizie che emergono anche dai media. E qui però in realtà il comportamento che consiglio è quello di non farsi ossessionare dalle notizie che arrivano dai media. Molto bene. Inevitabilmente i media tendono a, come dire, dover riempire dei vuoti. Ogni giorno bisogna uscire con qualche cosa sul giornale. Certo. E questo significa che la quantità delle informazioni molto spesso finisce per dover prevalere sulla qualità. Dal punto di vista del giornalista questo ovviamente è un processo naturale, ma dal punto di vista del lettore, invece, forse conviene concentrarsi sulle notizie strettamente essenziali, che in realtà, da un certo punto di vista, che supponiamo che Leonardo, la storia di Leonardo fosse valida. Sì. A me come utente, come cittadino, il fatto che il virus sia artificiale o naturale non cambia nulla, certo, in questo momento, certo, paradossalmente, perché mi devo difendere dal virus comunque. Certo. E quindi ecco, anche qui, anche per una questione di, come dire, salute mentale, certo, consiglierei di staccare un momento, non inseguire ogni singolo dramma, allarme, notizia, perché altrimenti si fa in un certo senso il gioco di tutti i diffusori di fake news e di malware basato sulle cattive informazioni. Ma questa industrializzazione della bufala tramite canali digitali, che impatti sta avendo sulle imprese e soprattutto sui dipendenti? Ma non ha un impatto diretto, nel senso che è raro vedere che un'azienda prenda una decisione sulla base di fake news, però ha un effetto collaterale che è quello di distrarre le persone che lavorano dalle informazioni che servono e dall'attività lavorativa diretta vera, certo, e propria. Quindi se nella pausa caffè ci si angoscia tutti perché ormai virtuale la pausa caffè, perché ci si trova a parlare sempre di questi problemi, è chiaro che questo danneggia la produttività. Se poi questo clima di tensione, di ansia sullo stesso argomento continua anche inevitabilmente quando si termina la pausa, si riprende il lavoro e poi arriva la mail del truffatore che parla di allarmi coronavirus, di importantissime informazioni che bisogna assolutamente leggere, c'è un PDF allegato, tutto questo crea un clima che favorisce il crimine informatico. Certo. Ci sono alcuni siti, come appunto quello del disinformatico, che hanno proprio il ruolo di aiutare a comprendere quali sono le bufale online. Ma voi come fate a scoprirle? Beh, non abbiamo una ricetta segreta, anzi cerchiamo di condividerla il più possibile. Di solito, dipende un po' dal caso specifico, ma di solito si lavora su un principio fondamentale, che le affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Mm-hmm. Vale a dire, se qualcuno mi dice, teorizza che il coronavirus sia stato fabbricato in laboratorio, mi deve portare delle pezze d'appoggio, certo, mi deve documentare questa tesi. Purtroppo questo non è un concetto molto conosciuto, perché di solito si dice, beh, io, secondo me è così, dimostrami che ho torto. Quindi l'onere della prova in mano al giornalista. Esatto, no, cioè, non funziona così. Invece quello che si deve fare è dire, ok, tu hai una tesi, che pezzi d'appoggio, che supporto documentale riesci a portarmi? Non ne hai, la tua tesi non vale nulla, giusto o sbagliata che sia. Mi devi portare delle documentazioni. E quindi questo è il primo passo. Il secondo è quello di cercare le fonti originali delle informazioni e sapere qual è il meccanismo di produzione delle notizie, cioè sapere che esiste questo sottobosco molto attivo di organizzazioni che monetizzano le fake news. Quindi l'errore che fanno in tanti al di fuori del debunking, quindi diciamo i lettori comuni, i partecipanti comuni alle conversazioni, le persone che lavorano al di fuori di questo settore, pensano che, ma sì, sono persone che sbagliano, sono persone, queste notizie false vengono messe in circolazione perché c'è un equivoco. È raro che sia così. Oggi ormai la produzione è confezionata in maniera professionale. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a conoscere bene il meccanismo e l'ambiente nel quale ci muoviamo, che è esattamente quello che si fa in tutti i settori, in fin dei conti. Si deve conoscere bene il proprio mestiere. E in questo caso il nostro compito di debunker è portare i lettori, gli ascoltatori, a conoscere questo mondo in cui anche loro si devono muovere, come ci muoviamo noi. Certo. Noi facciamo, come dire, da vedetta, segnaliamo un possibile pericolo e diciamo... La prossima volta non hai bisogno di dipendere da noi, puoi usare anche tu questi stessi strumenti che usiamo. E ce ne sono tantissimi. Faccio giusto un esempio. Certo. Si parla spesso di immagini drammatiche che vengono diffuse. C'è un modo molto semplice per verificare se sono vere. C'è un sito, si chiama tinai.com, tinei.com, nel quale si può immettere un'immagine che si è trovata online e vedere quando è stata pubblicata per la prima volta quell'immagine. È chiaro che se quella notizia è stata, quella foto è stata presentata come immagine di oggi, ma la trovo già datata 2013, so automaticamente in 20 secondi che quella foto è falsa. Quindi, e questo è un controllo facilissimo da fare. Certo, quindi strumenti che ci possano aiutare quantomeno a identificare delle fake news. Ma dal tuo punto di vista, passata questa emergenza che ci auguriamo finisca presto, diminuiranno queste fake news, oppure siamo arrivati ad un livello ormai, come dire, di diffusione industrializzata tale per cui dobbiamo veramente aumentare ancora di più la nostra attenzione nei confronti dell'informazione che circola? Ma credo la seconda sia la risposta giusta, perché quando sarà finita questa emergenza ci sarà sicuramente qualche altra gruccia emotiva sulla quale appoggiare le fake news, ci saranno scandali, ci saranno matrimoni importanti di membri della famiglia reale, qualunque cosa va bene. Cattive notizie, buone notizie, l'importante è che ci sia un appiglio emotivo sul quale il truffatore, il diffusore di fake news può agganciarsi. E quindi questa cosa non sparirà insieme al coronavirus. Dobbiamo essere noi a diventare la prima linea di difesa. Ed è un consiglio che io do sempre a chi lavora in qualunque azienda. Il dipendente, il lavoratore è la prima linea di difesa aziendale. Sì. Non esiste più una difesa perimetrale nel senso tradizionale come nel mondo fisico. Siamo noi che siamo davanti alla nostra scrivania, davanti al nostro terminale, al nostro monitor, sul quale arriva quella mail o quel messaggio, o sul nostro telefonino arriva un WhatsApp che ci viene chiesto di aprire. Siamo noi che dobbiamo valutare caso per caso se quello che ci sta arrivando è semplicemente una comunicazione interna o è un impostore che sta cercando di superare le nostre difese. Questo è fondamentale. Magari anche utilizzando una telefonata e verificando con il mittente se effettivamente quella mail è partita da lui. Sì, infatti le aziende stanno investendo molto nella formazione del personale per sensibilizzare a alcune piccole precauzioni. Ti arriva un'istruzione, è cambiato l'IBAN di un bonifico? Chiama qualcuno a voce per verificare che questo sia vero. Certo. Non ti fidare del fatto che c'è un PDF che ti sta dicendo di fare qualche cosa. I PDF si possono modificare. Certo. Paolo, un'ultima domanda prima di salutarci. Tutta questa tecnologia, continuiamo a parlare anche e soprattutto in questa trasmissione di intelligenza artificiale, di big data, della tecnologia che può aiutare le persone, ma in un mondo in cui l'informazione sempre più è a disposizione di tutti, e l'informazione ovviamente è l'elemento principale dei processi decisionali di ognuno di noi, possibile che la tecnologia non ci possa aiutare a fare filtri efficaci nei confronti delle fake news e quindi magari non costringere una persona a dover prendere un'immagine e a metterla su Tinai, ma a fare questo tipo, a integrare questo tipo di servizi all'interno dei processi aziendali o addirittura dei processi dei diffusori di informazione come le testate giornalistiche tradizionali o ancora di più social media e testate giornalistiche online? Beh, questo è un problema fondamentalmente industriale e economico, vale a dire che deve esserci una motivazione, una convenienza economica da parte delle aziende o delle testate giornalistiche a installare questi servizi che esistono. Si può già in automatico avere una preselezione delle immagini, una preanalisi. Alcune redazioni, per esempio, di giornali francesi hanno investito cifre ingenti per informatizzare la produzione degli articoli anche nel senso della selezione dei contenuti. Sì. Prima di pubblicare una foto c'è un controllo automatico della sua origine, cosa sì. che purtroppo molte testate non fanno, l'hanno trovata online, prendono copia e incollano. Quindi ci sono degli strumenti, però bisogna investire. E nell'attuale situazione in cui i costi vengono ridotti all'osso il più possibile perché non ci sono soldi per il settore pubblicitario, per esempio nell'editoria è in profondissima crisi perché i social network ne hanno preso il posto, i motori di ricerca anche, è difficile trovare i fondi per queste cose, però credo che sia un rilancio indispensabile, cioè quando si è nel momento di difficoltà che bisogna investire per tirarsene fuori, perché limare gli investimenti significa continuare pian piano a rinviare l'inevitabile. Quello che vedo è che alcuni si stanno adoperando per dire questo è il momento di rilanciare l'informazione fatta bene, selezionata, magari poca ma buona, piuttosto che tanta ma imprecisa, perché altrimenti si rischia di perdere la fiducia in quello che dovrebbero essere, come dire, i sostegni dell'informazione, certo. cioè i giornalisti. Ringraziamo ai nostri microfoni Paolo Attivissimo, autore del Disinformatico, il nostro cacciatore di fake news online che ci tiene compagnia sul suo profilo Twitter e sul suo sito Disinformatico. Grazie mille Paolo di essere stato con noi e di averci dato questi preziosi consigli. Grazie a voi. Ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi, ai quali diamo l'appuntamento per domenica al 13.45 con una nuova puntata di Radio Next, oppure in podcast la versione estesa di questa straordinaria e interessante intervista con Paolo Attivissimo lunedì mattina, disponibile sul sito di Radio 24. Ringraziamo ovviamente anche Radio Veronica per averci ospitato nei suoi studi di Torino. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Pepe Moder.